Italia in controluce. Si chiude la settimana di Italia in controluce, come sempre oggi 22 di giugno, in conduzione per la redazione di Radio 24, Daniele Biacchese. Al venerdì abbiamo Piera Ceci con Scuola in Controluce. Nei giorni scorsi, come sapete, si è parlato molto di scuola, di temi, di materie e di argomenti anche importanti. Sentiamo il nostro consueto focus sul mondo della scuola. Scuola in Controluce. E due sono andate, parliamo delle due prime prove scritte della maturità. Oggi i ragazzi si riposano per riprendere poi lunedì con l'ultima prova scritta e poi l'orale. Primo bilancio con Daniele Grassucci di scuola.net. Allora, intanto diciamo che la maturità è stata traghettata nel nuovo millennio. L'invio del plico telematico, che destava non poche preoccupazioni, è stato oggettivamente un successo. Sì, assolutamente, perché la maggior parte delle scuole è riuscita ad applicare correttamente la procedura e soprattutto le fughe di notizie che ci sono sempre state sono avvenute dopo la diffusione della password che ha sostituito il rito dell'apertura delle buste. Per quanto riguarda invece le prove, le due prove scritte, che cosa dicono gli studenti che si sono rivolti a voi di scuola.net? Globalmente le tracce sono piaciute e sono state giudicate in linea con la preparazione, però dico globalmente perché in realtà ci sono stati alcuni picchi di difficoltà, ad esempio di questo stanno parlando oggi gli organi di stampa e ieri internet, la versione di greco aveva una terminologia un po' complessa che ha messo i ragazzi in difficoltà a fronte di una sintassi non troppo complessa, oppure la prova di matematica, il secondo problema, aveva un ultimo punto che era un po' ostico dal punto di vista dei conti, quindi un ragazzo si poteva trovare in difficoltà, però ecco, globalmente prova la portata degli studenti, salvo alcune eccezioni. Lunedì dunque la terza ed ultima prova scritta, ma lunedì sarà una giornata particolare anche per i maturandi che vivono e studiano nelle zone dell'Emilia colpite dal sisma. Per loro infatti comincia proprio lunedì l'avventura dell'esame di Stato. 31 le scuole inagibili fra medie e superiori e che quindi hanno ottenuto il permesso per svolgere le prove solo a livello orale. Troppo pericoloso radunare tanti ragazzi contemporaneamente visto che le scosse non si fermano. E poi dove radunarli questi ragazzi visto che molte scuole sono inaccessibili? 1723 dunque maturandi che affronteranno la prova orale in luoghi di fortuna, nella maggior parte dei casi nelle tende approntate dalla Protezione Civile. Oppure ospiti in qualche scuola rimasta illesa come nel caso di Eleonora Barelli. Eleonora frequenta il liceo classico di Mirandola, uno dei paesi più colpiti. Ha una media da brivido, 9.7. Lei la sua prova della maturità la affronterà nella scuola media del paese, l'unica che non ha subito danni perché è nuovissima e quindi costruita con criteri antisismici. Le abbiamo chiesto se la disturba in qualche modo finire in modo così, come dire, inglorioso, solo con gli orali, il suo percorso di studio. No, disturba no, nel senso che ci hanno comunque favoriti perché il colloquio orale fa certo, non si è legati ai 15 più 15 più 15 punti che devono strettamente matematicamente tornare nelle prove scritte, però fa sembrare tutto ancora meno normale perché anche noi insomma che non abbiamo affrontato appunto le prove scritte ci siamo trovati su comunque alla mattina presto in concomitanza con le prove scritte a guardare Scuola Zoo, studenti.it per avere le tracce più o meno in diretta e vedere cosa ci sarebbe toccato fare. Quindi hai guardato le tracce, hai avuto un po' di, sì, come dire, invidia, no? Fra virgolette, forse per ma gli altri ragazzi. Ma un pochino, nel senso che comunque sarebbe stato bello mettersi alla prova, anche se insomma per l'ultima volta con la versione di greco piuttosto che scegliere il tema d'italiano. Non è stato possibile, però avendo visto Aristotele devo dire che non mi è dispiaciuto poi così tanto non dover fare la versione. Diciamo è uno dei piccoli aspetti forse positivi, in questo sì, caso credo, ti sei evitato Aristotele. Sì, un mio amico su Facebook stamattina per un piccolissimo istante ho quasi desiderato essere, o meglio voluto, e sono stato contento di essere terremotato dopo che ha visto appunto la versione che hanno dato. Senti Eleonora, come stai preparando il tuo esame orale? Perché insomma molti di voi hanno le case inagibili, molti di voi vivono nelle tende, so che tu per fortuna non sei fra questi, sei in una casa. Sì, l'esame direi che si prepara a porte aperte, nel senso al primo piano, con le porte spalancate sul giardino in modo tale che al primo movimento sospetto si possa uscire. Per il resto insomma si sta preparando cercando di radunare un po' le forze che sono rimaste, un po' di concentrazione anche se ovviamente non è al top dei top, però insomma per quanto mi riguarda, insomma, sto cercando di fare il possibile e vedere comunque di tirare fuori qualcosa che renda, dia valore anche agli anni passati al liceo, perché non vada tutto rovinato per colpa di un terremoto, insomma. Federico Garuti è anche lui all'ultimo anno di ragioneria a Mirandola. Anche per lui esami solo orali. Allora, l'UOSIS non è messo malissimo, non è neanche particolarmente agibile, perché ad esempio la segreteria è ridotta ormai in uno sgabuzzino, per il resto una parte in fondo del piano terra è agibile, ma la parte davanti invece è non particolarmente praticabile. E non so per quanto riguarda i piani di sopra. Nel senso che tu non sei andato a vedere in che condizioni è la tua scuola, non hai avuto la forza? Noi non ci hanno fatto entrare assolutamente, avevamo iniziato a fare gli incontri. Io quando è venuta la scossa del 29 ero a scuola nel cortile, e però ci abbiamo fatto svolgere questi incontri fuori, perché stavano provando a sistemare un attimo la scuola dentro. Poi è arrivata la scossa del 29 e non c'è stato più neanche quello, non ci sono stati più neanche gli incontri? No, gli incontri sono saltati, tutti, perché era inutile andare avanti così, anche perché non c'era l'attenzione poi dei ragazzi, e soprattutto molti ragazzi sono anche andati via. Una mia compagna è andata giù a Roma, poi è tornata su. Io sono andato a Mantova 2 settimane, che ho la nonna, e eravamo tranquilli. Insomma, chi ha potuto ovviamente ha lasciato Mirandola. Chi ha potuto ha lasciato. E dove stai preparando adesso il tuo esame di maturità? Io adesso sono a casa, sono ritornato martedì, e quindi mi sto preparando in casa con un po' di tranquillità. Sicuro? Sei tranquillo? Non hai paura a stare sotto un tetto? No, perché comunque la casa ha retto bene a tutti e due le scosse, e non mi preoccupa tanto la stabilità della casa, anche perché poi abbiamo tirato giù tutto quello che si poteva tirare giù come mobili e mobilio. E mi preoccupa di più non prepararmi adeguatamente in questo momento. Anche perché con una media del 9.5 tu vuoi sbaragliare orali, scritti che non ci sono, eccetera, non importa, vuoi forse anche la lode. La lode penso non me la possa andare, perché io nei tre anni, terza, quarta e quinta, non ho accumulato tutti i 25 crediti, ne ho 24, perché in terza avevo una media leggermente più bassa che non mi ha permesso di raggiungere la soglia massima, però potrei sempre arrivare al 100, quello è sicuro. Cosa significherebbe per te in questa situazione avere un bel 100? Vuol dire che mi sono preparato bene durante l'anno, ho studiato correttamente durante l'anno, e anche in questo periodo sono riuscito ad avere a una buona formazione, nonostante il momento non sia dei migliori per prepararsi. Ti senti con i tuoi compagni, vi telefonate? Con i miei compagni ci sentiamo, anche grazie a Facebook. Siamo andati a scuola ieri, che abbiamo consegnato le tesine, ci siamo rivisti un po' tutti. E che cosa ti raccontano? Insomma, riescono tutti ad avere l'autocontrollo e la concentrazione che invece tu dimostri di riuscire ad avere? No. Perché ad esempio una mia compagna di classe ha la casa che è inagibile, una mia compagna di classe invece ha la casa agibile, ma quella di fianco che non è agibile ed è andata al mare perché non ce la faceva e ha fatto anche fatica a studiare, e così anche altri hanno fatto fatica e stanno facendo fatica adesso a controllarsi e a studiare. Io sono stato fortunato perché, come ho detto prima, la casa non ha niente. Senti Federico, quanto è importante in questi giorni il fatto appunto che ti senti con i tuoi amici, che ti vedi con i tuoi compagni di classe? Insomma, è un po' un ritorno alla normalità in qualche modo? Rivedere dei compagni di classe è un piccolo passo verso la continuità, perché comunque già vedere che stanno bene, anche se la condizione esterna non è delle migliori, però vederle che stanno bene, che comunque ci provano, è un passo verso una piccola tranquillità, soprattutto perché poi quando ci si rincontra si torna a fare i commenti che si facevano prima a proposito dei professori dell'anno scolastico, quindi è una piccola ripresa verso la tranquillità. Torneremo lunedì alle 6.30 su Radio 24, vi anticipo che parleremo dei beni culturali a Roma. Avete saputo che qualche giorno fa si era staccato uno stucco dalla Fontana di Trevi, vogliamo capire un po' se Roma cade a pezzi oppure resta ancora in piedi con un personaggio importante che è il professor Umberto Broccoli, che è sovrintendente ai beni culturali di Roma. A risentirci dunque lunedì.